Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, mi permetto due note sulle parole di Berlusconi a proposito della crisi finanziaria. I mercati finanziari vivono sulle aspettative. Nel trading di borsa non si fa altro che scontare, oggi, il valore atteso di ciò che si pensa accadrà domani. Per questo gli agenti di borsa, che muovono i nostri risparmi, vogliono banchieri centrali affidabili, ovvero prevedibili, e vogliono anche ministri dell'economia affidabili e presidenti del Consiglio o della Repubblica affidabili e prevedibili. Vogliono gente noiosa, ovvero l'esatto contrario di Silvio Berlusconi, il quale fa una dichiarazione e dopo 10 minuti la smentisce, rendendo impossibile a qualunque operatore di borsa ogni genere di previsione, di stima e di analisi, aumentando a dismisura la volatilità, facendo crescere il panico tra gli agenti di piazza affari e le possibilità di speculazione per chi vede questa crisi finanziaria come un Bengodi. Possibile che Berlusconi, che è anche un imprenditore, non si renda conto che ad ogni sua parola corrisponde una certa reazione delle borse? La seconda perla del nostro presidente è quando suggerisce ai risparmiatori italiani che è il momento di comprare Eni e Enel. Al di là delle motivazioni di tale consiglio di investimento, che magari potrebbero anche essere giuste, stupisce che ad affermarlo sia proprio il primo ministro di uno Stato che di Eni ed Enel è anche il principale azionista, con il 27% e il 22% rispettivamente. Berlusconi lo farà anche per calmare i mercati, ma di fatto sta spingendo al rialzo le azioni di cui, in qualità di rappresentante dello Stato, è proprietario. Questo non è il reato che nel codice penale viene chiamato agiotaggio o turbativa dei mercati? Possibile, di nuovo, che Berlusconi, che è anche presidente di una società quotata in borsa, non lo sappia? Michele. Vivremo di pane, amore e fantasia. Quotazioni: pane meno 50%, amore meno 20%, fantasia meno 70%. Buon lavoro al nuovo direttore e a tutta la stimata redazione. Ivo. Come mai la benzina non diminuisce nonostante il prezzo del petrolio si sia dimezzato? Mi viene da pensare che dietro ci sia tutto un magna magna. Luigi. Domenica scorsa sono stato con mia moglie e mio figlio di 6 anni al parco Oltremare di Riccione. Ci siamo gustati, soprattutto il bambino, gli spettacoli offerti dai ragazzi, tutti preparati e bravissimi. Il volo dei rapaci, con spiegazioni semplici e accattivanti, la vista dei delfini, accompagnata da insegnamenti e chiarimenti che lasciavano i bimbi a bocca aperta. Insomma, un museo divertente, un posto dove ogni bambino dovrebbe trascorrere una domenica. Poi la sera si ritorna. E così in treno mi accorgo che sto mentalmente rifacendo i conti e i costi di questa bella e interessante, nonché spensierata, giornata. Quasi alla fine della somma mi accorgo che è proibitiva e che molte famiglie la debbono per forza classificare come spesa superflua, di quelle da tagliare. Poi penso che tante di queste domeniche sono superflue e non si muore tagliandole. Ma taglia, taglia, taglia, cosa ci rimane? Rudy. Oggi, nel pieno di una crisi, forse più di valori che di finanza, credo che la nostra classe dirigente, politica e non, dovrebbe soffermarsi a riflettere su un punto che per la nostra società non è più solo cruciale, ma vitale: il merito. Dalle nostre aule universitarie, dalle selezioni per divenire primari di ospedale, ma anche dalla massa di chi bussa alle aziende private per accedere a un posto di lavoro, più o meno allineato con la propria preparazione, si leva alto un unico grido: vinca il migliore. Ma il migliore a fare cosa? Facile immaginarlo. A risolvere problemi, a produrre nuove idee, a immaginare e creare un futuro diverso, migliore appunto. Forse perché, pur non essendo mai stato raccomandato e nonostante ciò, avendo comunque realizzato buona parte dei miei sogni personali e professionali, penso che solo il merito ci salverà, mentre una risata seppellirà il mondo di coloro che si saranno ancora affidati alla spintarella, al mezzuccio e al sotterfugio. Marcello. Gentile direttore, sarò forse un povero fesso di formazione di sinistra, chissà. Ma non temo, al contrario di molti altri fessi di sinistra come me, l'avvento di un nuovo fascismo. Neppure dopo aver visto gli eroi di Sofia starnazzare le loro faccette nere, o giovinezza giovinezza, come se realmente capissero il senso di ciò che fanno. No, io temo che questi marpioni tentino quello che ultimamente sembra essere la chiave del successo. Fai un cesto, vai in TV e via comparsate, serate in discoteca, magari un reality, fino alla beatificazione. Il fascismo era una perversa idea politica. Ma un'idea. Questi manco sanno cosa sia un'idea. Simone da Pistoia. Il presidente della Repubblica Napolitano ha accarezzato il petto di Materazzi che ci ha fatto vincere il mondiale. Il petto, dico. Ingrid Betancourt, candidata da Veltroni al Nobel per la pace, ha altamente apprezzato la testata di Zidane. Ma cosa pretendiamo da quattro borgatari in trasferta? Bulgara per di più. Emilio. Li chiamavano BB, un acronimo che oggi farebbe la gioia e la fortuna di certi quotidiani sportivi, sempre alla ricerca di sigle e formule che identifichino fantomatici moduli offensivi. Erano giovani e bravi, ragazzi di belle speranze. Sarebbero diventati campioni, prima nella vita, poi sul campo. Oggi sono uomini veri, che hanno saputo, nella vita, anche tirare calci a un pallone. Uomini così non ce ne sono più, o ce ne sono sempre meno. Giovedì sera c'erano in molti, non tutti, ma quelli che dovevano esserci. Firenze ha risposto, e lo ha fatto come sa fare in queste occasioni. È una notte di amici, sorrisi leggeri, emozioni che si incontrano. Poi ci sono loro due, come 20 anni fa, a correre sul campo, con Roberto che adesso spinge, come allora, Stefano verso la porta. Non con un'intuizione o un passaggio filtrante, ma semplicemente aggrappato a quella che ormai è diventata la vita di Stefano, quella carrozzina. Lo fa sul prato del Franchi, quello stesso prato che, secondo alcuni, sembra essere una delle cause della sclerosi laterale amiotrofica, o la stronza, come la chiama Stefano. Ad aspettarli verso l'uscita ci sono tutti i loro amici, i loro compagni di mille battaglie, disposti su due file, in quello che ormai è il terzo tempo. Ci sono tutti e tutti hanno una parola o un applauso per Stefano. Ruud Gullit si commuove. Cesare Prandelli lo accarezza. Lui che di queste cose se ne intende e che di lacrime, forse, non ne ha più. La Fiesole lo chiama, come allora, sotto la curva. I due vanno fin là, a godere di quei cori che urlano il loro nome. «Stefano, senti che bel rumore», dice il cronista. Roberto lo accarezza e Stefano risponde con una smorfia, ma è felice. Forse come non mai, forse per l'ultima volta in questo pieno di vita. E forse è proprio da questi particolari che si giudica un giocatore. Emozioni assolute, senza aggettivi, che in una sera d'autunno come tante altre mi fanno piangere di notte, alla mia età. Federico. Proprio nella settimana in cui la Rai ha mandato in onda La Bibbia giorno e notte, un'idea davvero lodevole, ma da quanti vista e ascoltata, il mondo ha assistito attonito a una delle più grandi e pericolose crisi finanziarie degli ultimi tempi. Guardando a questi due eventi mi è venuto in mente quanto è scritto sul dollaro americano. In God we trust, noi confidiamo in Dio. Forse, ho pensato, sarà meglio correggere con In gold we trust, noi confidiamo nel denaro. Del denaro, infatti, abbiamo fatto un Dio. Che sia per quello che assistiamo a questo disastro. Claudio, Trento. Caro Claudio, il tema del denaro e del suo valore è vecchio quanto il denaro stesso. È un tema non solo economico, ma forse anche e soprattutto filosofico e teologico. C'è tuttavia una linea di confine che mi sembra importante sottolineare, quella tra il denaro visto come uno strumento e il denaro considerato come un valore a sé stante. Già Virgilio, nella sua Eneide, afferma «Quid non mortalia pectora coges auris sacra fames», riferendosi all'uccisione di Polidoro da parte del re dei Traci per impossessarsi del tesoro di Priamo. A che cosa non spinge la cupidigia dell'oro? Potremmo pensare questo anche perché aveva pensato di moltiplicare le proprie ricchezze con l'ingegneria finanziaria. Il punto di fondo, caro Claudio, mi pare proprio quello di educare a considerare il denaro come uno strumento molto utile e ormai ineliminabile per facilitare gli scambi e quindi i pagamenti, ma anche per conservare ricchezza da usare in tempi successivi, mantenendosi tuttavia in equilibrio tra debiti e risparmi. ma quando il denaro diventa un valore a sé stante, in una logica di accumulazione fine a se stessa, allora non ci si può sorprendere se si arriva a mettere in crisi i corretti rapporti tra le persone e all'interno della società. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.